Non c'è donna più bella di quella che attraversa sotto la tua finestra. La temo dopo dov'è? Non c'è palestra migliore che studiare la vita. Prima ricreazione, poi dottore mi dica. Non c'è segreto segreto, non c'è traguardo traguardo, non c'è ombra per sempre. Chissà se Dio è tra la gente. So che quello che c'è è un orizzonte con te, e tra terra e cielo la riga che vedo è unita dai punti di un nostro disegno. Quello che c'è è un riparo con te, da un mondo estremo, un oceano intero. E se a volte tremo, la tua goccia almeno si bagna con me. Non c'è vuoto più grande di quello che hai dentro. Che mistero è l'amore, sa fermar pure il tempo. Non c'è risata più bella di chi è bambino ogni età. Non c'è rifugio per sempre, chissà se Dio poi ci sente. So che quello che c'è è un orizzonte con te, e tra terra e cielo la riga che vedo è unita dai punti di un nostro disegno. Quello che c'è è un riparo con te, da un mondo estremo, un oceano intero. E se a volte tremo, la tua goccia almeno si bagna con me.